Montecitorio e dintorni. Montecitorio e dintorni, buongiorno da Vincenzo Miglietta, ben trovati ai nostri ascoltatori. Insieme a noi questa settimana Lorenzo Dell'Ai, capogruppo alla Camera di Scelta Civica. Presidente Dell'Ai, cosa sta succedendo all'interno di Scelta Civica? Ma guardi, sarei bugiardo se dicessi è il solito dibattito costruttivo che c'è in tutti i partiti. Sappiamo che è qualcosa di più, è un momento obiettivamente molto delicato. Io credo che siano un po' saltati i nervi a tante persone e credo che ci sia alla radice un equivoco che non è stato ancora chiarito, ma io sono certo è un grande equivoco, vale a dire l'impressione che si è avuta che qualcuno, soprattutto dei senatori del nostro gruppo, avesse voluto fare accordi particolari con Berlusconi, col PDL, eccetera. Da qui è nata una grande discussione. Il presidente Monti si è sentito, per così dire, un po' tradito su questa strada, ma io sono certissimo che non c'è nulla di tutto questo. Dunque, se mi è concesso dire, la situazione è certamente molto critica, lo abbiamo visto, ma sono ancora convinto che se prevalesse la ragionevole valutazione delle cose e non la caricatura delle posizioni degli interlocutori, noi potremo ancora ritrovare un po' la bussola. Ecco, questo è l'auspicio, perché credo che i 3 milioni di italiani che ci hanno votato nel febbraio scorso non lo hanno fatto perché noi si portasse ulteriore fibrillazione in una situazione politica che è già di per sé molto instabile. E questi 3 milioni e passa di elettori che a febbraio hanno votato Scelta Civica, come hanno preso secondo lei l'abbandono di Mario Monti? Ma l'hanno presa evidentemente molto male, questo è fuori discussione, proprio perché, ripeto, il nostro è un elettorato che non gradisce queste liti, queste spaccature, è un elettorato che chiedeva responsabilità, che pensava di aver trovato e pensa forse ancora, mi auguro, di aver trovato in noi degli interpreti di quella stabilità politica che è mancata per tanti anni al nostro paese. Io credo che il nostro elettorato sia rimasto senz'altro un pochino inquieto di fronte a queste vicende, però il nostro è anche un elettorato responsabile, sa che la politica ha anche dei momenti difficili. E quello che conta è se riusciremo nei prossimi giorni a dar loro l'idea che un progetto magari si sta trasformando, giustamente deve trasformarsi, ma è ancora il nostro un progetto importante per la politica italiana. Aggiungo, se posso, si sta trasformando perché sta trasformandosi l'intero quadro politico del nostro paese, in direzioni che ancora sono del tutto inesplorate, per così dire, però si sente che un ciclo si è finito, un ciclo si è concluso, e un nuovo ciclo un po' alla volta faticosamente sta venendo avanti. A chi pensa Mario Monti, secondo lei, presidente dell'AI, quando parla di compagni d'avventura che si sono imbarcati sulla nave di Scelta Civica solo per interesse personale? Questo francamente non lo so, ma ho ritenuto questa una delle frasi meno giustificate, decisamente al di sotto dello stile che abbiamo sempre visto nel presidente Monti. Evidentemente è stata un'uscita provocata da amarezza, anche da arrabbiatura. Io sono convinto che i voti che abbiamo preso sono stati voti legati all'immagine del presidente Monti, ma legati anche al radicamento, al contributo che ciascuno dei candidati ha portato, quindi non vedo nessuno che si sia intrufolato strumentalmente nel nostro partito. Io lascerei da parte queste frasi, queste uscite, queste battute vere o attribuite al presidente Monti o ad altri. Fanno parte, credo, di una dimensione di questa discussione che non è quella sulla quale vogliamo costruire il futuro del nostro movimento politico. Questo è il passato, presidente, da dove ripartire ora? Ma io ho la mia opinione, naturalmente. Io ripartirei senz'altro dal fatto che noi siamo assolutamente e indiscutibilmente per la stabilità del governo Letta. Mi pare un punto politico importante, proprio nei giorni nei quali nelle altre forze politiche di maggioranza sembra riemergere volontà di buttare tutto all'aria. Noi siamo, credo, questa è la mia opinione, assolutamente per la stabilità del governo, almeno fino al 2015, perché pensiamo, e questo è il punto forte della nostra posizione, che prima vengono gli interessi del paese. Scelta Civica è nata per questo. Dobbiamo fare una buona manovra di stabilità. La proposta del governo è una base di partenza, ma lo stesso Presidente Letta ha detto che bisogna migliorarla, quindi è noto che noi abbiamo soprattutto prioritariamente la volontà di dare una mano per trovare le risorse, per ridurre ancora di più il peso fiscale sul lavoro, sugli stipendi e sui salari e sul costo lavoro delle imprese. Questa io credo che sia la scelta più importante che dobbiamo fare, e dunque proprio per questo noi non possiamo permetterci che il paese vada verso una situazione di instabilità, e non possiamo noi come Scelta Civica, per le nostre discussioni interne, dare un nostro contributo all'instabilità. Ma serve quel patto di legislatura auspicato più volte dallo stesso Mario Monti? Assolutamente sì, serve, perché la coabitazione di partiti così diversi altrimenti rischia di essere quotidianamente motivo di scontro, di incomprensione e quindi di rallentamento dell'azione riformatrice del governo. Lo stesso Presidente Letta ha più volte dichiarato grande interesse a questa proposta di metodo, e io credo che se, come tutti speriamo, la maggioranza riesce a superare le discussioni di queste ore, mi riferisco anche naturalmente al PDL, io credo che l'occasione della manovra della legge di stabilità dovrebbe proprio essere anche l'occasione per delineare una prospettiva di governo di medio periodo. È quello che credo si aspettano i sindacati, gli imprenditori e generalmente i cittadini, che non ne possono più di leggere un giorno sì e un giorno anche che il governo ha le ore, le settimane o i mesi contati. Sono veramente stufi, e noi abbiamo il dovere di dare loro la certezza che il governo sa cosa fare, sa dove andare e soprattutto ha la forza di farlo. Popolo della Libertà e Partito Democratico, per discorsi diversi alle prese in queste ore con il proprio futuro, c'è spazio ancora per il bipolarismo nel nostro paese o si va verso una presenza molto forte anche al centro? Ma guardi che l'Italia è sempre stata in realtà un paese bipolare. Il problema vero è che in questi 20 anni i due poli sono stati poli artificiosi, talmente artificiosi che non appena uno vinceva le elezioni, un anno dopo il governo cadeva perché non c'era la tenuta politica e programmatica della coalizione. L'idea di un centro non è l'idea di tutto ciò che non è né a destra né a sinistra. L'idea di un centro riformatore è l'idea di una forza politica che sa costruire proposte di governo. Io penso che noi non abbiamo nulla in contrario alla democrazia dell'alternanza, sappiamo bene anche noi che è molto importante che qualcuno vinca e qualcuno faccia l'opposizione. L'importante è che i poli, o meglio noi diciamo le coalizioni, si costruiscano su disegni di futuro e non semplicemente sulla voglia di battere l'avversario. Questo sarebbe una prospettiva di corto respiro, e noi, ecco il dibattito di Scelta Civica. Dentro Scelta Civica noi dobbiamo avere l'ambizione di essere parte della costruzione di una coalizione che sappia essere popolare, liberale e riformista, e sappia dare quella stabilità che le coalizioni attuali fino ad ora non hanno saputo dare. Grazie a Lorenzo Dell'Ai, capogruppo di Scelta Civica alla Camera. Montecitorio e dintorni termina qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.